su Radio Italia Network, Gigi D'Agostino. Ogni giorno tutto intorno, se c'è musica, un buongiorno. We'll be right back.

Per diventare migliore, inizia a viaggiare con cuore. Lasciati andare, però sta attento, non inciampare. Thank you.